Il mondo comincia dalle parole per dirlo, e perciò le parole sono importanti, tanto più che, come diceva qualcuno, sono tutto ciò che abbiamo. I miei studenti hanno fatto un bel lavoro individuando le parole più frequenti di questo periodo. Io ne ho aggiunte altre, così abbiamo creato una sorta di nuovo lessico familiare, il lessico dell'epidemia, le 100 parole che raccontano come è cambiato il mondo. Alcune parole sono di tradizione letteraria, come ad esempio la parola untore, altre dell'uso comune e riadattate o specializzate o risemantizzate, da guanto a mascherina a ventilatore, altre ancora in forma straniera, nuove o meno nuove. Talvolta inutili anglicismi come eurobond, lockdown, smart working. Tanti tecnicismi medici prêt-à-porter come tampone, o ben acclimatati come sintomo, anticorpi, o più colti come pandemia, interstiziale, mentre sempre confuso e ambiguo, tanto per cambiare, il lessico delle istituzioni e della politica, come ad esempio congiunto, affetti stabili, abitazione, autocertificazione, N più infinito. Di alcune parole vince la variante tecnica come focolaio, ad esempio, mentre il focolare richiama bene altre atmosfere, anche in forma di sigle e acronimi sempre più familiari, come Covid, OMS, MES. Alcune costruiscono nuovi immaginari. Il balcone di Romeo e Giulietta lascia il posto a quello da cui gruppi familiari chiusi in un interno si connettono in canto via etere. Altre parole sono storpiate sulla bocca dei meno colti, come assemblamento, o rivelano slittamenti pandemici. Una persona positiva è guardata con paura, allontanata. Usi metaforici belligeranti, come in prima linea, il nemico, anche con un pizzico di prosopopea, gli eroi.